Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo argomento che approfondiamo insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, lo facciamo anche questa volta col presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. È una moda che è cresciuta, una moda, io uso questo termine spero non impropriamente, quella dei comproro, tantissimi negozi che si sono moltiplicati nelle nostre città, pubblicità in televisione, sui giornali, vetrine che sono quasi completamente oscurate, di solito non si vede nulla dentro, ebbene i dati sono in aumento, sappiamo che la crisi spinge anche a liberarsi magari degli ori di famiglia per avere in cambio del denaro. Che cosa può esserci dietro? Lo sappiamo, lo dicono anche tante inchieste. Allora Carlo, da cosa partiamo? Dal dato che dice che sempre più italiani vanno proprio a questi negozi, possiamo chiamarli negozi o è scorretto? Ah, guarda amico, purtroppo dobbiamo parlare di un argomento che noi abbiamo sempre voluto portare alla luce e alla ribalta dell'attenzione dell'opinione pubblica, lo stiamo facendo anche oggi grazie a te, perché riteniamo che certamente le agenzie di compro-oro sono delle agenzie sorte in un momento di grave difficoltà delle famiglie, una grave difficoltà che il nostro paese sta attraversando, e con l'intenzione di proporsi di dare anche una mano a queste famiglie che in questo momento di grave crisi economica, dove non hanno più i soldi per comprarsi da mangiare o per curarsi, sono arrivate addirittura a dover vendere l'oro di casa, ma certamente è un fenomeno che anche noi abbiamo sempre visto con grande preoccupazione, perché anche il fatto, come hai accennato tu, che ci sono queste vetrine nere che dovrebbero in certo qual modo, detta di qualcuno, garantire la privacy, che invece poi scopriamo che proprio a rigore di quelle che sono le continue notizie di cronaca che vengono portate ogni giorno sui quotidiani eccetera, dietro in realtà ci sono dei fenomeni poco chiari, poco trasparenti, di cui vale veramente la pena porre l'attenzione come stiamo facendo. L'oro ha evidentemente un valore commerciale, un valore affettivo per tanti di noi, a partire dalle nonne, dai genitori eccetera eccetera, ha anche però chiaramente un valore commerciale, tanto che le riserve degli stati, delle nazioni, sono appunto in lingotti d'oro, questo da molti secoli a questa parte, sono una riserva, un bene rifugio evidentemente, ma è un bene che a quanto pare, leggendo questi dati di arresti appunto, che nel 2013 sono in nettissimo aumento, c'è la criminalità che ci sta mettendo le mani su questo settore. Sì, allora partiamo da alcuni dati, così diamo anche una dimensione al fenomeno. Innanzitutto un rapporto del 2013 dell'OISPES ha dichiarato che un italiano su quattro si è rivolto al compro-oro nel 2013, e addirittura in un anno la percentuale è salita dall'8,5 al 28,1%. A causa di questa impennata, la criminalità economica ha iniziato a guardare certamente con interesse questo settore, e a confermare i dati, qua non è stata la RISPES ma proprio la Guardia di Finanza, che nel 2013, quindi non è passato molto tempo, sono stati fino ad oggi arrestati 52 responsabili di traffico di metalli preziosi e oltre il 200% in più rispetto all'anno precedente. Ha sequestrato dall'inizio dell'anno 179 kg di oro e di argento, un incremento dell'attività dell'86% della Guardia di Finanza rispetto al 2012. Sono state denunciate 86 persone per responsabilità di traffico, come abbiamo detto, e quindi certamente dietro a questi dati non si può non certamente fare delle considerazioni come stiamo facendo, fermo restando che non sono ancora dei dati definitivi, perché parliamo di 2013, quando alla fine dalla trasmissione di questi dati alla fine dell'anno mancano ancora diversi mesi, per cui continuiamo a dire che il gioco d'azzardo in Italia certamente è un fenomeno, il traffico del compro-oro certamente è un fenomeno molto molto delicato, che fa capire appunto la dimensione della crisi e che delle famiglie che in questi anni stanno attraversando, ma che pari passo è giusto che portiamo ad attenzione anche quello che è il fenomeno del gioco d'azzardo, perché sono due settori che in questo momento di grave crisi stanno lievitando veramente e facendo grossi affari. Ecco, non credo di essere tanto distante dalla realtà dicendo che qualcuno magari vende il proprio oro per avere dei contanti, che magari investe proprio anche investe tra virgolette nel settore del gioco d'azzardo. Cerchiamo di fare chiarezza: la vendita dei metalli preziosi è ovviamente regolamentata dalla legge, quindi non è che vendere oro sia illegale, bisogna farlo però attraverso i canali giusti. Io ricordo che normalmente, almeno così facevano i miei genitori, i nonni, quando volevano così impegnare o vendere una catenina, una collanina, un anello, andavano per farselo valutare in gioielleria, che insomma è un negozio, è autorizzato, è certificato, ci sono degli esperti. La legge come gestisce la vendita dei metalli? Anche qui si è parlato molto, perché innanzitutto da una parte loro si nascondono con la garanzia dell'anonimato, dall'altro noi anche come Adico lo dico, non capisco questo pagamento in contanti come può essere regolamentato, quando oggi tutti gli orientamenti per combattere l'evasione sono quelli di spingere le persone a effettuare bonifici oppure a pagare in certi determinati modi rispetto ad altri, per esempio con l'assegno non trasferibile. Ora, io personalmente non sono mai andato su un'agenzia di comproro, però posso anche capire che se da un lato c'è qualcuno che vuole liberarsi di metalli preziosi che hanno in soffitta da tantissimi anni, che non sanno più cosa farne, e questo può essere anche visto come un certo modo, dall'altro c'è proprio questi numeri della finanza e c'è proprio quello che è sospetto di molte persone a pensare che dietro questa agenzia alla fine ci possono essere anche dei fenomeni di riciclaggio. Ora, noi non possiamo certo pensare che tutte le agenzie siano così, e voglio anche credere che ce ne siano molte che lavorano seriamente, però che questo settore abbia avuto un incremento e un volume di lavoro aumentato, lievitato parecchio rispetto agli anni precedenti, fa capire che c'è veramente un interesse considerevole da parte di molte persone a queste agenzie, che quindi certamente vale la pena che fosse regolamentato bene o fosse reso più trasparente su quelli che sono anche tutte le procedure e i volumi di scambio che insomma queste agenzie, come qualsiasi altro negozio, dovrebbero avere. Io che un negozio abbia una parete scura e che non si veda dentro, lo trovo un po' particolare, capito, come metodo di lavoro. Certo, del resto è l'unica attività commerciale in cui è il commerciante che dà i soldi, quando i soldi invece è il cliente, cioè quello che compra sta dall'altra parte del banco e non è quello che si rivolge al negozio, e questa cosa del pagamento in contanti effettivamente qualche sospetto lo può destare. Il nostro tempo è esaurito, con l'Adico ci ritroviamo la settimana prossima con altri due approfondimenti e argomenti. Grazie al presidente Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te Mirko. Saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.